Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il caso di Yara Gambirasio, l'uomo arrestato si difende. Quella sera ero a casa con la mia famiglia, il cellulare era scarico, non ho mai visto quella ragazza, non mi spiego il mio DNA sul corpo. Una versione di Luciano per il classico, funzioni integrali allo scientifico, Expo, al turistico, così la seconda prova della maturità, ma oggi ci sono anche le prove invalsi per 600.000 studenti delle medie. Tre hacker tentano di bucare il sito, fermati. In Iraq il governo ha ripreso il controllo della raffineria di Baij, intanto si allarga l'emergenza profughi, sarebbero oltre 300.000 solo nel Kurdistan iracheno. Museo gratis per gli under 18, mentre gli over 65 dovranno pagare. Cambia il regime di orari e ingressi, lo annuncia il ministro Franceschini agli Stati Generali della Cultura del Sole 24 Ore. Una vera e propria banca clandestina gestita dall''ndrangheta, con prestiti agli imprenditori in difficoltà per la crisi, arresti in Calabria e a Milano, coinvolte tutte le principali 'ndrine. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, come sempre i contatti, Effetto Giorno a radio24.it, il mio account Twitter se volete, Simone Spezia, il nostro numero di sms 349-238-6666 e infine la nostra pagina Facebook, anche quella ha ripreso a funzionare come tutti i vostri account dopo lo stop di circa un'ora che c'è stato questa mattina. Parleremo naturalmente in questa edizione anche dei mondiali con il racconto di oggi del nostro inviato in Brasile. Ma apriamo con la cronaca e con l'interrogatorio di questa mattina dell'uomo arrestato per l'omicidio di Yara Gambirasio. Mi trovavo a casa con la mia famiglia il 26 novembre 2010 quando scomparve Yara Gambirasio. Questo ha detto Massimo Giuseppe Bossetti questa mattina davanti al GIP durante l'interrogatorio di garanzia. È la prima volta che il presunto omicida parla dopo essere stato sottoposto già due volte a interrogatorio. Quello che ha detto è stato riferito dal suo legale Silvia Gazzetti. Ha risposto a tutti le domande che gli sono poste sia dal pubblico ministero che dal GIP, ha dichiarato con forza la sua innocenza, lui è totalmente estraneo ai fatti che gli vengono contestati. Intanto viene smentita a Radio 24 da fonti della Procura di Bergamo la notizia diffusa ieri e su tutti i giornali di un test del DNA effettuato sul padre anagrafico di Bossetti. Sono stati prelevati campioni salivari da tutti i familiari del presunto assassino, ma nessuna di queste provette al momento è finita in laboratorio. Il PM Letizia Ruggeri non lo ritiene un esame necessario, anche se sarebbe la prova del 9 per capire se Massimo Giuseppe Bossetti è figlio o no di quello che fino ad oggi ha ritenuto fosse suo padre. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro sulla vicenda di Yara. Noi cambiamo decisamente argomento e parliamo di maturità e di prove invalsi. Di fatto oggi c'era 1 milione di studenti richiamato o chiamato sui banchi appunto per sottoporsi all'una e all'altra prova. Ci colleghiamo con Antonella Ferrara che si trova davanti al liceo classico Tito Livio di Milano, ma alla quale chiediamo innanzitutto un quadro generale. Antonella, buongiorno. Buongiorno Simone, come detto oggi giornata 10 anni per 1 milione di studenti ai 500.000 che hanno sostenuto la seconda prova di maturità, appunto quella di indirizzo, si sono aggiunti 600.000 studenti di terza media. Qui al liceo classico Tito Livio i ragazzi hanno consegnato da qualche minuto, hanno avuto 4 ore di tempo per tradurre la versione di greco, che quest'anno era un brano dello scrittore Luciano. Una versione un po' complicata ma tutto sommato fattibile per gli studenti del Tito Livio. Alle prese invece con il calcolo degli integrali gli alunni del liceo scientifico, mentre quelli dell'Istituto Tecnico per il Turismo si sono misurati con la traccia Sexpo 2015. Ma dicevamo, intanto stamattina sono tornati a scuola anche gli studenti delle scuole medie impegnati con il test degli invalsi. Proprio qui vicino c'è la scuola media Beltrami e i ragazzi che sono ancora davanti all'ingresso raccontano che il test è stato meno difficile del previsto, ma a complicare un po' le cose sarebbero stati i quesiti di logica. Per il momento è tutto, Simona Seradina. E grazie ad Antonella Ferrara. Chi ci chiede via sms, avete ragione, a volte diamo troppe cose per scontate. Cosa sono le prove invalsi? Sono delle prove che servono a valutare i livelli di apprendimento degli studenti arrivati ad un certo livello, in questo caso si tratta della terza media. Ma oggi è successo anche qualcos'altro, che alcuni hacker, tre hacker, hanno bucato il sito dell'invalsi sostanzialmente, come si dice in gergo. Saluto Ivano Gabrielli che è direttore del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle infrastrutture critiche. Buongiorno Gabrielli, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, ci spiega esattamente cosa è successo? No, è successo che praticamente alcuni ragazzi particolarmente abili, degli hacker in gergo, si erano introdotti all'interno del sito dell'Istituto Invalsi con particolare perizia e si accingevano, abbiamo evidenza, la sottrazione di test eventualmente per diffonderli. Questo è successo qualche giorno indietro, ma grazie alla collaborazione immediata con il MIUR siamo riusciti a sventare, ad identificarli immediatamente e quindi ad evitare la diffusione dei test e l'invalidazione della prova. Sono riusciti anche a postare una foto pornografica sul sito, da quel che abbiamo capito. In gergo è stato fatto un defacement, cioè praticamente era stata messa una foto pornografica a dimostrazione dell'avvenuta violazione del sito, una cosa che viene fatta in questo particolare mondo per attestare appunto questa prova di ingegno. La velocità con la quale ci siamo mossi ha permesso però di individuarli subito, abbiamo lavorato notte e giorno per 2 giorni di fila e siamo riusciti in tempo ad evitare che fossero sottratte le prove, che era la cosa più importante. Perfetto, quindi da questo punto di vista Gabrielli lei può rassicurare sul fatto che è tutto regolare, cioè siete riusciti a intervenire in tempo affinché le prove non fossero, diciamo così, rubate e diffuse. Sì, abbiamo sequestrato i computer dei ragazzi, abbiamo avuto i riscontri, hanno tutti ammesso le proprie responsabilità, hanno tutti ammesso le proprie intenzioni e di fatto abbiamo evitato la pubblicazione dei test. Cosa rischiano? Rischiano adesso di essere la contestazione di accesso abusivo al sistema informatico e di danneggiamento, quindi con pene abbastanza elevate. Grazie a Ivano Gabrielli, che è direttore del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, per essere stato con noi. E noi passiamo all'estero e passiamo a parlare di Iraq. Le forze lealiste irachene, ossia il governo, ha ripreso il pieno controllo del complesso di raffinerie di Baiji. Siamo a 200 km a nord di Baghdad, attaccato nei giorni scorsi dagli jihadisti dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, il famoso ISIS, che sta avanzando nel paese, come vi abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi. Questa è la notizia che arriva da fonti del governo iracheno. Torneremo su tutto questo anche più avanti nel corso di Effetto Giorno, perché vogliamo cercare di capire esattamente di chi si tratta, chi sono gli jihadisti dell'ISIS. Intanto però c'è la questione dei profughi, 300.000 e altrettanti in arrivo dai combattimenti del sud nel Kurdistan iracheno, che è diventato un rifugio per chi fugge dalle zone di combattimento. Ad Erbil Gigi Donelli ha raggiunto telefonicamente Fabio Forgione, che è responsabile per l'Iraq di Medici Senza Frontiere. Sentiamolo. Si parla di circa 300.000 sfollati che abbiano già raggiunto e siano entrati nelle frontiere del Kurdistan. Questo numero di 300.000 si duplica nel momento in cui consideriamo gli sfollati che sono ancora nelle zone, diciamo, di conflitto oggi in Iraq. L'amministrazione del Kurdistan iracheno è in grado di gestire questo afflusso di profughi? Le autorità curde fino adesso hanno avuto, diciamo, le risorse per poter almeno colmare quelli che erano i bisogni primari. Oggi ci sono degli appelli fatti a organizzazioni internazionali di emergenza di intervenire in modo da far sì che i bisogni siano coperti. Il problema è che, non essendoci campi, la presenza dei profughi è un po' dappertutto, famiglie, in scuole, in moschee, il che quindi rende ancora più difficile la possibilità delle autorità, ma anche delle organizzazioni presenti, di operare in maniera corretta. Quali sono le vostre priorità? Cosa state facendo? Cerchiamo di focalizzarci sulla prima assistenza, quindi malattie croniche, salute mentale, e allo stesso tempo fare in modo che le persone che arrivino possano avere accesso per trattamenti di emergenza. Mentre a sud di fatto in furia la battaglia, il Kurdistan si sente in qualche modo minacciato? Ma sembrerebbe che ci sia comunque un certo grado di attenzione nel non diciamo fare in modo che un ulteriore attore, come sarebbero in questo caso i curdi, l'esercito curdo, i cosiddetti Peshmerga, entrino anche loro nel conflitto. E come si diceva, ci torneremo più avanti. A chi ci chiede aggiornamenti sulla vicenda dei ragazzi israeliani, i 3 ragazzi israeliani rapiti una settimana fa, con calma, insomma, ci stavamo arrivando, ed ecco, l'esercito israeliano questa mattina ha arrestato altri 30 palestinesi la notte scorsa, in realtà in Cisgiordania, nell'ambito dell'operazione per localizzare e liberare i 3 ragazzi. Il totale degli arrestati al momento è di circa 280, di questi oltre 50 liberati in cambio al ritorno del soldato Shalit. Nelle indagini di ieri notte sono stati perquisiti anche circa 100 edifici. Naturalmente, se avremo altri aggiornamenti su questa vicenda in evoluzione, ve li daremo. Veniamo e torniamo all'Italia con gli Stati Generali della Cultura, dove questa mattina, organizzati al Sole 24 Ore, dove questa mattina il ministro Franceschini ha annunciato una sorta di rivoluzione per gli ingressi e gli orari dei musei. Francesco De Remigis, è così? Buongiorno. Sì, buongiorno. L'annuncio è arrivato dal palco dell'Auditorium Conciliazione. Dal 1 luglio cambia il sistema tariffario dei musei statali, che viene allineato agli altri paesi europei. Sopra i 25 anni pagheranno tutti, la gratuità scompare quindi per gli over 65, saranno solo i giovani sotto i 18 anni a non dover acquistare il biglietto insieme con alcune categorie come gli insegnanti. Una piccola rivoluzione che si inserisce nel pacchetto di provvedimenti voluto dal governo per rilanciare il comparto, anche attraverso l'ingresso gratuito nei musei limitato alla prima domenica del mese. Stando ai numeri, ogni anno più di un terzo dei visitatori non paga l'ingresso grazie alle agevolazioni che da luglio saranno per questo ridimensionate. Agli Stati Generali della Cultura promossi dal Sole 24 Ore, il ministro Franceschini ha annunciato anche un'altra novità. Il venerdì i grandi musei saranno aperti fino alle 22 e almeno due volte l'anno sarà possibile visitare in notturna anche i siti archeologici al costo di un euro. L'intervento su orari e tariffe si somma ai provvedimenti che l'esecutivo ha previsto per valorizzare il sistema museale, dall'introduzione dell'autonomia finanziaria delle strutture prevista nel decreto Art Bonus alla figura del manager nei grandi musei. Se abbiamo paura che un privato faccia un atto di mecenatismo, siamo fuori strada, ha concluso Franceschini. Noi abbiamo cambiato le norme affinché questo non accada, ora dice, aspettiamo che i privati si facciano avanti. Grazie a Francesco De Remigis per questi aggiornamenti dagli Stati Generali della Cultura. E adesso invece si è parlato di riforma dei musei, di riforma per quanto riguarda la cultura. In realtà quello di cui si sta discutendo in queste ore in politica sono le riforme istituzionali e la riforma della legge elettorale. Elisabetta Fiorito, le novità di stamattina. Allora, siamo a un passo dalla chiusura, dice Matteo Renzi, per il Premier l'accordo c'è, si dà l'addio al bicameralismo perfetto, un Senato ad elezione indiretta dove però ci sono più rappresentanti dei consigli regionali che non sindaci, la Camera Alta recupera molte funzioni, non avrà il potere di dare e togliere la fiducia al governo, ma avrà competenza sulla legislazione regionale ed europea e coeleggerà il Presidente della Repubblica, il CSM e i giudici costituzionali. Soprattutto ci sarà quindi una competenza anche sulle leggi elettorali e costituzionali. Ci sarà un sindaco per regione, ma non sarà automaticamente il primo cittadino del capoluogo di regione, sarà eletto dai colleghi, un totale per un quarto di sindaci, una ventina, e per tre quarti di rappresentanti regionali. Ricordiamo che Silvio Berlusconi ieri aveva detto che il nuovo Senato non doveva essere proprio un dopolavoro dei sindaci. In aula a Palazzo Madama si andrà probabilmente il 3 luglio, ma intanto c'è invece Renato Brunetta che frena gli entusiasmi, è una riformetta, l'accordo non c'è, bisogna vedere il lavoro in commissione, quindi c'è sempre più attesa per l'incontro del ministro Maria Elena Boschi con Paolo Romani di Forza Italia. Intanto questa mattina il ministro ha incontrato Gaetano Quagliariello del nuovo centrodestra e poi dovrà incontrare anche il Movimento 5 Stelle, soprattutto per discutere di legge elettorale e quindi di maggioritari. Come noi sappiamo, il Movimento 5 Stelle invece propone il proporzionale. A te, Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. A proposito di riforme, sta parlando in questi minuti, però in questo caso di riforme economiche, il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, e dice: fate anche voi le vostre riforme, altrimenti il paese non vi crederà più. Perché? Perché questa mattina è stata presentata la riforma appunto di Confindustria in quello che Squinzi ha definito un giorno storico. Sono orgoglioso di dire che siamo un esempio per tutte le istituzioni e la politica. Vedremo di tornarci più avanti nel corso di Effetto Giorno. Nel frattempo passiamo a parlare del Mondiale, perché molti titoli di quotidiani spagnoli riecheggiavano quello che è successo a livello istituzionale, ossia il fatto che la Spagna abbia abdicato dopo due europei vinti e un Mondiale, vinto l'ultimo Mondiale, con la sconfitta di ieri con il Cile per 2-0. Tra l'altro, alla vigilia del giorno dell'incoronazione. Muchas gracias, moltes gracias, scaricaso, moltes gracias. Questo era Felipe VI, il nuovo re. In questo momento dice ci vuole una monarchia rinnovata per un tempo nuovo. La corona deve essere vicina ai cittadini e guadagnarsi il loro rispetto, ha sottolineato il re, come si diceva questa mattina. L'incoronazione, però, passiamo a parlare di noi invece, dell'Italia, con il nostro inviato che ci racconta soprattutto le questioni meteo che si incrociano con quelle che riguardano ovviamente il gioco. Prima a Manaus l'umido e soffocante abbraccio dell'Amazzonia, ora tra Recife e Natale il rischio caldo torrido unito alle possibili piogge. Peculiarità di un mondiale in cui meteorologi e nutrizionisti possono essere più decisivi di un centravanti. E allora occhio alle previsioni meteo che recitano. Venerdì a Recife contro la Costa Rica alle 13 previste piogge schiarite con una temperatura di 26 gradi che equivale a 28 percepiti. Condizioni simili dovrebbero esserci martedì 24, sempre alle 13 a Natal contro l'Uruguay. Nubi sparse, 27 gradi, percepiti 30. Condizioni impegnative, se non proibitive, cui gli azzurri si stanno preparando da tempo. Ieri a Mangaratiba, allenamento alle 13 per simulare le condizioni di gara. Alle 9.30 invece colazione classica arricchita da frutta secca, succhi centrifugati per i sali minerali. Poi carboidrati, pasta integrale o riso basmati, magari con un tocco di pomodoro, e uova, soprattutto albume. Il tutto sotto la regia delle due nutrizioniste del gruppo, Elisabetta Orsi e Veronica Nardi. Fino al fischio d'inizio i loro suggerimenti valgono quasi quanto quelli di Mister Prandelli. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Mangaratiba. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Caso di Iara, l'uomo arrestato si difende. Quella sera ero a casa con la mia famiglia. Una versione di Luciano per il classico, funzioni integrali per lo scientifico, Expo al turistico. Così la seconda prova della maturità, ma oggi anche 600.000 studenti delle medie alla prova in Valsi. In Iraq il governo ha ripreso il controllo della raffineria di Baiji. Museo gratis per gli under 18, mentre gli over 65 dovranno pagare. Cambia regime di orari e ingressi, lo annuncia il ministro Franceschini agli Stati Generali della Cultura del Sole 24 Ore. Saluto Stefano Lulli, segretario dell'OSPOL, che è il sindacato di polizia locale di Roma. Buongiorno e bentornato. Grazie. Ai nostri microfoni. Domani scioperate, tra l'altro in una giornata discretamente complessa, perché c'è il concerto degli Stones, c'è la partita dell'Italia col rischio che la gente vada a festeggiare per strada. Ci spiega perché? Ma i motivi del perché, diciamo, questo è uno sciopero susseguente a quello del 29 gennaio, quindi diciamo rivendichiamo diritti che non sono che tutelati del personale della polizia locale, quindi sulla salute, sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle cause di servizio, cioè sulle mortalità che abbiamo all'interno, quindi è un discorso molto ma molto complesso. Noi abbiamo fatto un accordo con il sindaco, con il comandante del corpo il 7 marzo, in cui erano stati elencati dei punti precisi in merito alla sicurezza e alla salute del lavoratore che non sono stati rispettati. Quindi domani ci ritroviamo nuovamente in piazza a rivendicare questo. Quindi il tema è quello, non è una questione di quattrini, Lulli? Marginale, la situazione di quattrini è marginale, legato proprio diciamo al nostro ruolo, quindi il discorso dei soldi è marginale, è importante chiaramente anche il discorso dei soldi perché è legato alle nostre funzioni proprio che facciamo, cioè faccio un esempio, se un poliziotto della Polizia di Stato ha una determinata indennità perché ha una gravosità su quel servizio, chiaramente a noi ci viene tolto. Ecco, questo è fatto in sintesi. Questo è in sostanza il punto. Senta Lulli, volevo capire questo, ma io capisco che sia anche una questione di trattativa sindacale, no? E quindi uno lo fa quando crea più problemi lo sciopero, evidentemente, però insomma proprio domani con la giornata che si prospetta e poi con le partenze per il fine settimana, insomma, no? Ma guarda, non è domani il tanto disagio, il disagio ci poteva stare se scioperavamo di sabato in cui c'era proprio il concerto dei Rolling Stones, quindi diciamo lì diventava proprio un problema. Domani ci sono i preparativi del concerto, certo un po' di disagio lo creerà, ma non sarà un enorme disagio, e diciamo abbiamo messo a punto i servizi minimi essenziali in modo che si garantisce comunque sia la cittadinanza su questo e comunque sia, insomma, diciamo un pochino di problemi ci saranno, però saranno molto meno rispetto se lo facevamo sabato in cui c'erano eventi importanti. Grazie a Stefano Lulli, segretario dell'OSPOL e il sindacato di polizia locale della capitale. Le auguro buona giornata e saluto Ismail Davud. Io spero di aver pronunciato giusto, buongiorno. Giusto, buongiorno. Perfetto, attivista di un ponte per, si occupa di Iraq e dell'organizzazione dell'Iraqi Civil Society Solidarity Initiative. IrakiCivilSociety.org se volete il sito. L'abbiamo chiamata perché lei si occupa di Iraq da anni e vorrei che ci aiutasse a capire chi è l'ISIS. Chi sono questi jihadisti che stanno terrorizzando un pezzo del paese e, a dir la verità, anche un pezzo dell'Occidente? Sì, allora, prima di tutto, guardando quello che è successo in Mosul, in Kirkuk e ad Anbar, non si parla soltanto di ISIS, si parla di una situazione più complessa. Ci sono i ribelli, ci sono i nazionalisti che combattono contro il governo iracheno. Ricordiamo bene che per un anno, l'anno scorso, quella anche prima, c'erano le manifestazioni di queste città, si parla di Hawija, di Mosul, di Anbar, contro questo governo. ISIS ora è entrato con tutti questi gruppi armati, con tutti questi ribelli contro il governo. È vero che ISIS ha capacità a far vedere la sua forza e anche che sono il gruppo più brutale in questa guerra, però dietro c'è una situazione complessa. Se parli ora con qualcuno che viva dentro Mosul, non si parla di ISIS, si dice che sono i gruppi armati, sono contro il governo, la maggior parte sono sunniti, sono di tribù, alcuni sono basisti, eccetera, eccetera. Però l'ISIS esiste in questa realtà, non soltanto loro che sono combattono contro il governo, e magari sono i più pericolosi per tutti, per i sunniti. Dunque questa realtà, diciamo, una realtà, per come ce la sta dipingendo lei, una realtà molto più complessa, come spesso accade in questi casi, rispetto a quella che stiamo dipingendo noi in questi giorni, no? Insomma, questa rivolta, questa avanzata non è costituita solo da gente, appunto, dell'ISIS. Sono gli jihadisti dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, così si chiama. Che possibilità c'è, a suo giudizio, che prendano, molto brevemente glielo chiedo, che prendano effettivamente il potere, cioè che arrivino a Baghdad e di fatto conquistino il paese, e se hanno interesse a farlo? Allora, si parla di una situazione che cambia ogni giorno, anche perché la realtà, il gruppo ISIS non controlla territorio, come abbiamo detto, che quelli che controllano il territorio e controllano città sono i gruppi, sono i ribelli sunniti di tribù nazionalisti. Allora, ISIS ha un piano strategico, sta competendo contro le basi militari per guadagnare più armi, sta combattendo con per guadagnare più il controllo del petrolio. Quindi è difficile dire, cioè, che ISIS sarà in controllo a Baghdad, però è più probabile che le forze sunnite che combatta in questa regione hanno il controllo reale su questa regione, e forse magari una realtà politica deve essere una realtà complessa e diversa di quelle che ha fatto il governo di Maliki per 8 anni. Allora, intanto la ringrazio, Ismail Davud, attivista di Un Ponte Per. Noi andiamo a chiudere questa parte spostandoci addirittura nello spazio, perché partirà il 23 novembre la nuova missione di un astronauta italiano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Si chiamerà Futura, durerà 6 mesi, è stata presentata da Samantha Cristoforetti questa mattina, capitano dell'aeronautica militare, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, che a bordo effettuerà molti esperimenti. L'ha intervistata Enrico Pagliarini. Sì, si tratta tratta di una cosiddetta missione di lunga durata su questo, io lo chiamo l'avamposto dell'umanità nello spazio, in realtà è un grande laboratorio dove si fa principalmente ricerca scientifica, più tutta la serie di attività che servono per mantenere in funzionamento questo avamposto nello spazio. E quindi dal punto di vista scientifico la cosa bella di cui io sono molto orgogliosa è il fatto che durante questa missione svolgerò, oltre tutta una serie di esperimenti delle varie agenzie spaziali coinvolte nel programma, tutta una serie di esperimenti della comunità scientifica italiana grazie ad un bando ad hoc che è stato fatto dall'Agenzia Spaziale Italiana. Quindi farò una serie di esperimenti delle nostre università, dei nostri istituti di ricerca, molto incentrati, devo dire, sulla fisiologia umana e la medicina, quindi aspetti molto vari, dalla neurologia, le strategie di equilibrio in microgravità, di adattamento del coordinamento psicomotorio, l'osso, quindi i problemi del riassorbimento dell'osso, quindi anche legato a tutti i problemi poi a terra di osteoporosi, aspetti vascolari, in particolare i problemi di ritorno venoso dal cranio, dalla testa, anche questo legato poi a patologie a terra, problemi del sonno. E poi ci sono anche degli interessanti dimostratori di tecnologia, da una stampante 3D, che è una tecnologia che ormai è consolidata a terra, però si vuole iniziare a validarla, a testarla e validarla per l'ambiente spaziale, perché potrebbe essere veramente un game changer per l'esplorazione, la possibilità per esempio di stampare pezzi di ricambio e quindi ovviando la necessità di avere uno stock o comunque di dover inviare con tutte le difficoltà di catena logistica pezzi di ricambio. E poi addirittura ci sarà una macchina del caffè espresso, che chiaramente è una cosa che può sembrare di costume, sicuramente c'è anche un elemento di costume, però anche lì dentro c'è un forte contenuto tecnologico, perché ci sono tutti gli aspetti termici e idraulici che non sono così ovvi quando si lavora in assenza di peso. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Quella sera ero a casa con la mia famiglia, il cellulare era scarico, così l'uomo arrestato per l'omicidio di Yara Gambirasio. Una versione di Luciano per il classico, funzioni integrali allo scientifico, Expo al turistico, così la seconda prova della maturità. In Iraq il governo ha ripreso il controllo della raffineria di Baiji, intanto si allarga l'emergenza profughi, sarebbero oltre 300.000 solo nel Kurdistan iracheno. Museo gratis per gli under 18, mentre gli over 65 dovranno pagare, cambia il regime di orari e ingressi, lo annuncia il ministro Franceschini agli stati generali della cultura del Sole 24 Ore. Una vera e propria banca clandestina gestita dall''Ndrangheta, con prestiti agli imprenditori in difficoltà per la crisi, arresti in Calabria e a Milano, coinvolte tutte le principali 'ndrine. È il momento della borsa. Borse in diretta. Tutto bene oggi, più 1,01% il FTSE MIB, più 0,93% il FTSE All Share, in lieve discesa rispetto a solo un'ora fa, comunque positive. Francoforte più 0,75%, Parigi più 0,84%, Londra più 0,72%. Isabella Tasso, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Buona reazione, mi sembra, alle dichiarazioni di ieri della Presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, no? Sì, sì, ancora quello che sostiene i mercati sin da stamattina, le assicurazioni che la Fed intenda mantenere una politica monetaria accomodante nel lungo periodo. Aiutano quindi le dichiarazioni della Presidente Yellen, anche se la sensazione degli operatori è che si sia entrando in una fase di mercato più estiva, in cui gli acquisti saranno più moderati rispetto alle ultime settimane. Brevissimamente, Finmeccanica è il titolo migliore, guadagna il 3,5%, ci sono motivi particolari? Ma il mercato apprezza la smentita delle indiscrezioni secondo le quali la controllata Ansaldo Breda verrebbe incorporata nel gruppo, il titolo accelera appunto, come dicevi, del 3,6%. Grazie Isabella Tasso, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E dunque ci colleghiamo con Alessandra Schepisi, che sta seguendo l'appuntamento nel quale Confindustria parla anche della riforma della stessa Confindustria. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Confindustria appunto si rinnova, diventa più snella e moderna. L'assemblea straordinaria questa mattina ha dato il via libera al nuovo statuto che rende operative le linee guida della riforma approvata dalla giunta lo scorso ottobre. È un giorno storico, ha commentato in una nota il presidente Giorgio Squinzi, che in questi minuti sta tenendo invece una conferenza stampa sulla presenza di Confindustria a Expo 2015 con un accordo sottoscritto tra l'associazione e il padiglione Italia. Siamo di fronte, ha detto parlando della riforma, appunto ad una vera e incisiva riforma del sistema, la terza in 100 anni di storia, una spending review mirata che consentirà all'associazione di essere più efficace. La riforma infatti prevede una riduzione dei costi attraverso ad esempio una sforbiciata al numero dei membri che fanno parte del Consiglio Generale, il passaggio dagli attuali 3 livelli degli organi direttivi a 2, il dimezzamento in 3 anni del numero delle associazioni, ma anche un forte impegno per la legalità con un nuovo codice etico. Noi ce l'abbiamo fatta, ha detto Squinzi, rivolgendo un monito alla politica e alle istituzioni affinché anche loro facciano le proprie riforme, altrimenti, ha detto, il paese non vi crederà più. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi e saluto Guido Castelli, sindaco di Ascoli e delegato alla finanza locale dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Bentornato ai nostri microfoni, Castelli. Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, grandi polemiche ieri tra il commissario europeo Tajani, vicepresidente della Commissione europea, e il ministro Padoan sul tema dei pagamenti alle imprese, perché l'Italia è stata dei pagamenti alle imprese da parte del, come dire, dello Stato, ecco, per così dire, della pubblica amministrazione, perché l'Italia è stata messa in mora. Ieri però è uscito anche un comunicato del Ministero dell'Economia, il quale dice per questo scopo è stato messo a disposizione dei comuni 1 miliardo e 800 milioni di euro di liquidità, appunto, per pagare le imprese, per pagare i fornitori, e i comuni ne hanno ritirati solamente 1 miliardo e 300 milioni. Allora io voglio capire, Castelli, perché? Perché immagino che i debiti siano superiori, i vostri debiti verso i fornitori. Sì, assolutamente, c'è un problema che purtroppo ha natura tecnica, cercherò di spiegarlo nel modo più chiaro e intelligibile possibile. Spesso e volentieri il problema della liquidazione dei debiti dei comuni deve scontrarsi con il problema del patto di stabilità. Questo vuol dire che noi abbiamo comunque uno spazio finanziario limitato di liquidazioni, quindi viviamo spesso e volentieri in questa contraddizione che io non esito a definire un po' grottesca dal punto di vista amministrativo. Abbiamo la possibilità di pagare anche dopo il decreto 135 che effettivamente ha messo a disposizione dei plafond, ma purtroppo questa è la realtà della stragrande maggioranza dei comuni. Cioè, teoricamente mi spieghi, Castelli, io la semplifico per gli ascoltatori, in pratica voi potreste anche ritirarli quei soldi ma poi non li potete usare? Sì, sostanzialmente è un meccanismo, quello dello sblocca crediti messo in piedi dal governo, che non tiene conto del fatto che comunque ogni comune ha dei limiti alle liquidazioni. Quindi se da un lato i provvedimenti giustamente hanno creato le condizioni per i pagamenti, dall'altro ci sono ancora delle norme, tra l'altro avremo proprio martedì un tavolo tecnico sul problema del patto di stabilità, norme che, come dicevo, impediscono di fatto la liquidazione di quei compensi maturati, legittimi, dovuti ai nostri fornitori. Grazie per le spiegazioni a Guido Castelli, sindaco di Ascoli, delegato alla finanza locale dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Le auguro buona giornata e buon lavoro. E visto che stiamo parlando di liquidità e di soldi alle imprese, parliamo di un fatto di cronaca, di una vicenda, insomma, della quale si sta parlando in queste ore, di un'operazione che c'è stata questa mattina. È stato scoperto una sorta di sistema creditizio parallelo gestito dall''Ndrangheta. Ci sono stati 17 arresti, e di cui alcuni a Milano e la gran parte in Calabria, un sistema gestito sostanzialmente da tutte le 'ndrine, le principali, le più forti 'ndrine calabresi. Saluto Antonio Marcianò, che è presidente di SOS Impresa in Calabria. Buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a lei. Senta, l'impressione è che una vicenda di questo genere sia un po', per certi aspetti, la punta di un iceberg, come si dice con una frase fatta, perché in questi anni il credito non c'è stato e spesso le aziende per sopravvivere si sono trovate, non dico costrette, però molto tentate dall'accettare condizioni di questo genere. Lei ha ragione quando parla di questo, però intanto è indispensabile una premessa. Questa è una delle operazioni sulla quale le forze di polizia, la magistratura hanno lavorato in maniera mirata non è una di quelle inchieste che è stata un susseguirsi e quindi scoperta magari durante un'indagine di mafia per altri eventi. Questo ci fa sperare bene, perché in Calabria la magistratura, quindi lo Stato, i carabinieri mietono successi, in questi ultimi tempi sono tanti successi e i colpi assestati alla mafia. Questo specifico di stamattina apre un fronte nuovo, mette a nudo la difficoltà delle imprese a reperire sul mercato legale, tra virgolette, risorse e finanziamenti, per cui per sopravvivere sono costretti a rivolgersi al mercato parallelo. Mercato parallelo che per grosse dimensioni è in mano alla mafia. Non che prima la mafia non si interessasse di usura, ma la considerava un'attività collaterale. Oggi invece la grossa disponibilità di liquidità costringe un po', tra virgolette, la mafia a metterlo in circuito. E perché il punto è questo, nel momento nel quale la liquidità non c'è, non circola o non viene fatta circolare, insomma c'è una stretta del credito nel mercato legale c'è qualcuno che la liquidità ce l'ha ed è sono esattamente le organizzazioni criminali. Perfetto. Ed è un meccanismo, Marciano, è un meccanismo, Marciano, che porta anche non infrequentemente al fatto che le aziende vengano addirittura acquisite dalle organizzazioni criminali che così ripuliscono il loro denaro, in sostanza. Questo è anche un mezzo per acquisire aziende, ma la mafia ormai è prevalentemente azienda, molte attività di confisca prevedono prevalentemente anche confische di aziende e di quote societarie, perché l'operazione di stamattina, almeno dalle informazioni che ci sono state sequestrate anche 8 milioni di quote di società. La difficoltà maggiore sta nel fatto che comunque non si riesce a limitare il fenomeno, perché l'operazione stamattina ha messo in luce questo rapporto con il nord dell'Italia, dove a Milano si investe in maniera concreta, in maniera seria, e quindi anche forse su quel fronte le imprese hanno difficoltà a reperire risorse, o forse è un mezzo per cui la mafia interviene con la liquidità per stare dentro le aziende, dentro il mercato. Marciano, ci dica una cosa, molto brevemente, perché c'è un ascoltatore che ci scrive, Stefano da Udine, dice, e chissà, magari per assurdo i tassi dell'Andrangheta sono più attraenti di quelli delle banche stesse, è così o i tassi sono da usura? Intanto la mafia, l'Andrangheta presta soldi a usura e non fa un tasso legale. Nonostante il tasso è usurario, molte volte la differenza con i tassi delle banche non è molto evidente, perché comunque il denaro in Calabria costa mediamente il 13-14%, che non è un tasso di poco conto, ma noi ci auguriamo che questo tipo di operazioni, questo tipo di interventi, ripeto, interessanti, utili e che devono dare speranza alle imprese pulite, smuovono anche il mercato finanziario e quindi le banche, più che ad allargare i cordoni, ad avere fiducia nelle imprese sane e pulite. E in Calabria, mi creda, ce ne sono tantissime. Grazie Antonio Marciano, presidente di SOS Impresa Calabria Traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. The committee thus believes that economic activity is rebounding in the current quarter. La Federal Reserve ha chiuso le sue riunioni del comitato monetario e ha lasciato invariate, devo dire, le sue previsioni, un po' come ci si aspettava. I tassi resteranno fermi sui minimi storici, fra lo 0 e lo 0,25%. C'è stato un nuovo taglio di 10 miliardi di dollari del piano di acquisti per buoni del tesoro e strumenti ipotecari sul mercato, e un taglio da 10 che porta il totale a 35 miliardi di dollari al mese. Ricordiamolo, fino ad alcuni mesi fa il totale era di 85 miliardi di dollari, e il cosiddetto tapering dunque continua. L'inflazione, nel 2014 la Fed non è preoccupata, dovrebbe restare fra l'1,5 e l'1,7%, ma la Fed non è preoccupata perché la crescita rallentata un pochino, continua il primo trimestre negativo nei dati revisionati, è stata un'aberrazione, dice la Fed, un'aberrazione dovuta soprattutto al freddo. La crescita nel corso del 2014 sarà tra il 2,1 e il 2,3%, meno di quel 2,8-3% che era stato previsto in marzo, ma pur sempre tassi molto soddisfacenti, soprattutto se li vediamo da una prospettiva europea. Disoccupazione sta migliorando, dice la Fed, la ripresa del mercato immobiliare invece è lenta, ha tirato molto bene per l'economia, adesso sta un pochino rallentando. Sentiamo cosa ha detto la Yellen in una delle dichiarazioni più importanti. The FOMC has no target for what the right level of volatility should be. Avete sentito la Yellen che alla fine della riunione ha fatto la sua conferenza stampa tradizionale e dice la Fed non ha un obiettivo per il livello di volatilità. Volatilità sui mercati, naturalmente, ma una elevata propensione al rischio, avverte la Yellen, è motivo di preoccupazione per me e per la Commissione. A questo punto è importante che i mercati capiscano che la strada verso un aumento dei tassi a breve non è prestabilita. Un messaggio, devo dire, chiarissimo, era il messaggio che ci aspettavamo. La Yellen non vuole dare delle scadenze per l'aumento dei tassi a breve, le aveva date, si era detto all'inizio del 2015, forse nei primi sei mesi del 2015. Adesso fa di nuovo un passo indietro. In questa situazione i tassi continueranno a restare bassi, poi vedremo. Everyone sensible will agree that next year there will be somewhat more jobs. Paul Krugman, insieme ad altri cinque economisti, è stato convocato ieri alla Casa Bianca dal presidente Barack Obama per una distesa colazione per parlare di crescita economica. E dunque, cosa ha fatto Obama per completare questo quadro che dalla Federal Reserve è passato a una chiacchierata con macroeconomisti per aiutare la crescita? È andato a fare un giro nei giardini della Casa Bianca tra coloro che sono davvero sul fronte della produzione, della crescita, gli inventori, quelli che si inventano i prodotti, manifatturieri che possono aiutare l'economia e la crescita. E dunque Obama ha organizzato questa Makers Fair nel giardino della Casa Bianca, il nome, come dire, un po' particolare perché in sé per sé non significa nulla, però dà l'idea del fare, possiamo tradurlo come fiera del fare, Makers Fair. Il senso è quello, vuole spingere l'imprenditoria, il settore manifatturiero. E visto che, appunto, vi dicevo, si parla molto del rinascimento del settore manifatturiero, ieri è stata organizzata nei prati fuori dall'ufficio ovale e nel giardino delle rose, sono stati organizzati una trentina di stand fieristici, veri e propri stand, con un centinaio di nuovi prodotti inventati, creati nel contesto del manifatturiero, da queste fertili menti americane che sono arrivate da 25 stati. Your projects are examples of a revolution that's taking place in American manufacturing. Avete sentito il presidente? Fantastico, sono orgoglioso di voi, dobbiamo continuare su questa strada, quello dello sfruttamento della tecnologia e dell'economia digitale per creare nuove generazioni di prodotti. E questo progetto di questo Makers Fair ha proprio come obiettivo quello di esplorare nell'accademia, tra coloro che in un garage si inventano qualche cosa, nelle scuole superiori, tra la comunità scientifica, qualche cosa di straordinario, di curioso, di interessante che è stato prodotto grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, per esempio delle stampanti in 3D, delle stampanti tridimensionali, che erano tra l'altro localizzate in uno degli stand. In questa mostra ci sono una chitarra elettrica, una protesi per un piede, uno skateboard, una grande bicicletta che può portare dei carichi e generare allo stesso tempo energia per ricaricare le batterie di un telefonino. Questo evento di ieri alla Casa Bianca, come dire, fa parte di una campagna continua che il presidente americano fa per tenere su il settore manifatturiero, e avanti ieri si era recato a Pittsburgh a visitare questo Tech Shop, che è una sorta di parco industriale che ha rivitalizzato una zona della città, e chi vuole si iscrive a questo Tech Shop. Il costo di iscrizione non è superiore a quello che può costare l'iscrizione annuale a una palestra, ma in cambio vi è l'accesso a macchine, a computer, programmate per fare design, per realizzare prodotti, e si possono usare delle macchine stampanti in 3D, delle macchine stampanti tridimensionali. Ecco, sempre ieri il Presidente, in conclusione di questa giornata, ha annunciato una serie di iniziative. Per esempio, ha chiesto all'Ufficio Brevetti di aiutare giovani imprenditori che fanno i loro esperimenti nei garage, ha chiesto al Pentagono di aumentare le commesse per le start-up. Complessivamente ha coinvolto 11 agenzie governative, dal Pentagono alla National Science Foundation, che dovranno investire 2,5 miliardi di dollari all'anno in piccole iniziative imprenditoriali. Insomma, in America non si parla soltanto di crescita, ma come abbiamo visto, solo in una giornata, tra Federal Reserve, incontri con macroeconomisti, viaggi a Pittsburgh e soprattutto fiere dei prodotti nuovi, si cerca di passare all'azione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bene, l'era digitale della musica in streaming via internet. Jack White ha fatto un record di vendite di dischi vinili, cioè vecchi dischi, quelli di plastica, 40.000 copie vendute del suo ultimo album Lazzaretto. Questo in aggiunta a 41.000 CD e a 57.000 downloads. Jack White, Lazzaretto. È tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, come sempre a tutta la redazione di Radio 24. Se volete scriverci, effettogiorno@radio24.it, come sempre il mio account Twitter, mi trovate, Simone Spezia, c'è anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Ci ritroviamo tra un attimo con GR24.